un po'. Mi stavo per chiudermi. Aiuto, apre un'altra chiamata, poi spiego tutto. No, no. Io sono qua, ce l'ho visto com'è qua, io sono già a posto. Poi sì, già nana. Ho acceso il televisore, mi sono messo col duccio, ho allungato il microfono tipo Navali. Il microfono tipo? Tipo Navali, non so che il microfono lo puoi togliere lì dalla base e te lo allunghi come vuoi. Ah, è per quello che sta lavorando il microfono solo. Senza la base. Infatti è completamente diversa la modulazione. Come diversa? Perché influisce? Secondo te, se lo metti diretto il microfono, l'aggancio diretto alla stessa tonalità del microfono la base. Il microfono normale diventa quello. Un'altra cosa. Quindi cosa? Meglio o peggio? Molto peggio. È un microfono normale. Non hai la chiarezza, praticamente non stai usando le tonalità del menu. Stai usando il microfono normale senza le tonalità del menu. Perché la alimentazione è disinserita dalla base. Ok, giusto, giusto. Te ne do ragione. Te ne do atto. Ragione. Cazzo, ho controllato sui canali alti, cazzo, ci va bene a funzionare, ragazzi. Allucinante, ragazzi. E ma dov'è il buco manodoro? Canali alti dove? E su canali alti dopo 30 arriva a 40. Quindi fluisce un po' di umidità. Influisce un po' di umidità. Mi sa che dobbiamo darle un colpo. Sali sopra, si riabbassa leggermente, sali sopra, sali. E abbassiamo leggermente la spirale allora. Sì, sì, perché ho valutato, adesso qua ne ho uno di stazionario. Invece oggi pomeriggio, come ho fatto la prova, su tutti i canali da 9 al 40 ne avevo uno. Adesso evidentemente c'è umidità e sono salito. E di quanto? Guarda, 1,5. Strano però, Scaramantova di solito non fa queste cose. E vabbè, facciamo la regolazione diversa, vero? Passiamo per appena in modo che fino al 40 siano stabili a 1,1. Però prova domani mattina e chiamami. Prova domani mattina l'antenna asciutta. Ma vi dico già quasi. Sì, vabbè, domani mattina devo uscire presto. Devo uscire presto e devo fare un casino di cose, devo spiegare un po' di cose. Ma più la provo domani pomeriggio, così asciuga, domani pomeriggio la provo di nuovo e vedo un attimino se asciutta su tutti i 40, su tutti i 40 canali se ne abbassa. E io sto pensando che influisca l'umidità e quindi la spirale conviene abbassarla. Abbassiamo. Abbassiamo, c'è un problema. Non è quello il problema. Va bene. C'è tanto un po' d'accendere. Va bene. Va bene. Provala domani. Anche quando si asciuga bene. Mi fai salsedia delle cose, l'umidità non le fate più nulla. E appunto adesso deve lavorare un attimino l'antenna, capito? Deve lavorare un po'. Dopo che lavora, che si stabilizza, penso che ritorni alla normalità. Ok, ho fatto un giro, una spazzolata ai canali, c'era qualcuno da Itiri, almeno mi ha detto che era da Itiri, cazzo, mi arrivava 9.10, quasi 9.20, non mi ricordo il nominativo, ho chiesto un controllo a Itiri, 9 più 20. Sei 9.25 qua, immagina già delle 9.10 prima, da un quarto d'onda a 5 ottavi di euro vicino a Bassi. Sì, lo so, sono sul 95, c'è Antonio che è un mio collega, andiamo a Tore. Tore è l'altro, quello lì, ma non mi interessa. Io sto qua. Non molto, perché fra un po' spengo tutto il tuo, avete fatto un paio di chiamate, se c'era qualcuno, se non sarà tutti mettere il bucane. Antonio, questi giorni è sempre stanco, non voglio parlare, è incazzato lei la finale bruciata e quindi non sta entrando. Capri mi sembra che è andato a cenare, non lo so. Vabbè, comunque, chi vuole entrare, siamo qua, non c'è problema. Ok, ho chiesto anche qualche verifica lì a Capri, anche da lui c'è stato miglioramento, lo stesso mi sembra Santiago 8, Radio 5, no, e beh, il miglioramento già c'è stato, dai, e beh. Siamo passati, diciamo, è tutta un'altra cosa, anche ricezione, cazzo, è inutile. Se vuoi dei buoni risultati devi mettere il suo, c'è poco da fare, va bene. Va bene, ok. Niente, è fatta mattina ieri. Quando me ne sono andato lì che abbiamo fatto le prove qua, c'hai il segnale quante, te l'ho detto, qua al monte Tolto Lucca è un po' più alto, gli altri, quelli con l'antenna esterna del Monte Basso mi arrivano 9.20, più 9.25, quelli con l'antenna, gli altri Santiago 9, non di più. Essere fuori Sassari, sì, alla grande, non poco, un bel alla grande. Vabbè, c'è da considerare anche che la zona è aperta, capito? Non ci sono ostacoli, quindi stai radiando liberamente, capito? Il segnale non viene ostacolato, non viene respinto, e quindi viene va meglio, capito? Infatti io stavo pensando che potesse influire il discorso, perché siccome vicino, non so se ci hai fatto caso, c'è una linea di alta tensione, infatti ho detto ma chissà che non possa influire, però sembra che non influisca. L'unica cosa influisce è il tuo rumore, io non riesco ad eliminare. È tutta la sera che c'è questo la mattina non c'è mai, la sera c'è sempre questo rumore, non so, adesso vediamo se sparisce quando questa settimana attaccano il riscaldamento e quindi spengono le pompe di calore, sicuramente saranno quelle, capito? Non lo so, non ne avevo mai di questo rumore, avevo sempre detto rumore uscì. Fortunatamente i segnali che ricevo sono tutti altissimi, se no mi creerebbe problemi veramente. Ma posso dire che questo pomeriggio e stamattina ce l'avevo fisso, sembrava capo un motorino, un moto zappa sembrava, l'avevo fisso coso, adesso niente, c'ho un leggero QRM di Santiago 2 e Santiago 3, proprio pulito, pulito, pulito, ed è sparito. Anch'io, ma stasera c'era sempre questo cazzo di rumore che come cane c'era dai vini, ma la chimica non si possono accendere, la di bomba ha voluto, con gli HF e con l'NB inserito me lo attenuo, infatti sto usando il 430 perché è molto selettivo, fa molto bene. Sono un po' così, a parte vabbè, quelli amatoriali, ma quelli non li uso 27. Va bene, va bene, va bene, ok, ma e dimmi una cosa, neanche con l'accordatore te li abbatto, con l'accordatore inserito nei canali alti 1,5 o senza accordatore? No, con l'accordatore sui canali alti accordo benissimo, 1,1, ne segna 1,1 sui canali alti, e sullo strumento che sale 1,5. Infatti adesso non lo so se fare affidamento a lui o allo strumento. Vabbè, l'accordatore se li abbatte sotto gli 1,5, quindi quello automatico. Perciò non è che se ci sono 1,5 in stazionale tu si dice l'accordatore automatico, ti si spegne la luce regolarmente, li abbatte sotto gli 1,5, li abbatte, quindi non sei a rischio nel modo più assoluto, però vediamo di farle qualche accorgimento. Già è stata fatta, vabbè, la tela è assemblata benissimo, non c'è problema, è vulcanizzata e tutto, però facciamo qualche accorgimento così sei più tranquillo, capito? Oh, Sandro. Sì, sì, sì, sì, no, su quello non ci piove. Lo sai, per togliersi uno scrupolo, cazzo, perché adesso qua su questo canale, per dire, la tacchetta si muove leggermente, quasi quasi non si muove neanche. Lui lo stesso fisso 1,1. Io adesso domani pomeriggio provo un attimino, prima di salire su provo un attimino e vedo un po' com'è asciutta. Secondo me influisce l'umidità, e se influisce l'umidità si può provare la spirale, perché te l'ho detto dal segno. La spirale l'ho portata quasi 5 centimetri, provo a abbassarla magari a centimetro a centimetro e vediamo che cosa succede, cioè è giusto fare delle prove, solo così, perché io sto pensando che potrebbe influire che non è ritornato giusto l'ultimo stilo. Pure che sia così come stai dicendo tu, può darsi pure, però io mi ricordo che non tirava più di quello lo stilo, quindi non lo so, bisogna controllare la misura. Sì, vabbè, cioè di una cosa sono certo, che oggi pomeriggio dall'1:40 avevo 1,1, 1,2 di stazionarie a strumento. Stasera, verso le 8:30, come appena provato, ho fatto un giro, controllato e sono salite. Quindi secondo me è questione di umidità, e quindi adesso l'antenna orale si deve fare la sua pattina e deve lavorare un po'. Tutto lì. Infatti, dimmi come si comporta domani quando l'antenna si è asciugata. Non c'è più umidità, se nel caso è ancora... capito. E vabbè, dai, già siamo tranquilli, non è che siamo tranquilli. E se vedo che mi sta a mattanare molto, c'è l'accordatore lui esterno, automatico, e li chiappiamo quello lì. Più tranquilli di ghiaccio. Stasera ho chiamato là per quella roba là, mi ha detto ci darà verso la prossima settimana. Tutto lì. Per l'altoparlante, la prossima settimana. Sì, la prossima settimana, perché domani e venerdì dovevano fare l'ordine, ce l'avranno in due giorni dall'autoparlante esterno. Quindi mi ha confermato che massimo lunedì o martedì finiscono tutto. E gli ho chiesto dell'accordatore esterno in automatico e non è che venga molto. Quello di quella radio non costa molto. Il suo, proprio suo, quello in automatico esterno, si fa tutto da solo. E viene 130 euro. Sul 430 qua, perché gli altri c'erano tutti l'accordatore automatico interno, però questo ce l'avevo, l'ho abbinato al 430 e fa tutto in automatico, infatti in automatico c'è solo la puntazione dell'antenna e basta. Che pare. Ah, già lo sistemiamo. Ma adesso però fai arrivare la colonnina l'MD200, poi appena arrivata quella roba ci facciamo due tarature e poi ordinare l'altro pezzo. Sì, vabbè, adesso vediamo un po', dai, facciamo andare così, già va migliorato, dai, già va più che bene tutto quanto. Ho chiesto per una scarpetta proprio da abbinare a lui, il Sommer Camp valvolare 800 watt, sai quanto è? E altro, 1000 euro. Eh? 1000 euro. Di meno. Oh, va bene. Allora, il Sommer Cup 800 valvolare viene 750 euro. Per questo che avevo pagato io questo dello IAIS, più o meno, beh, 800 non è venuto a me. 800 euro, questo dello IAIS, che c'ho io, quello grande. L'altro invece, quello grigio, io, quello costa. Quello che ho pensato di su. Controlliamo magari su internet, vediamo se c'è qualcosa. Provo a chiedere a qualche radioamatore, magari adesso quando ci vediamo, provo a chiedere a qualche radioamatore a vedere. Magari c'è qualche amplificatore in giro, capito? Proprio da abbinare a quelle radio lì, perché non è che puoi metterle un mignaretto di baracchino. Diciamo 0-100 watt d'ingresso, quindi come il mio. Chiediamo, sa. Adesso fai linea però, adesso prenditi la, quando arriva la colonnina e l'altro microfono. E poi vediamo, ci muoviamo assieme, vediamo se troviamo qualcosa. Io conosco un sacco di gente. Magari al computer ci mettiamo una sera qua. Metto a contattare la settimana di Faenza, che loro hanno sempre un sacco di roba da dare. Io il 440 l'avevo preso da loro. Ho capito. No, ma mi voglio togliere una curiosità, voglio chiamare lì a coso, a coso, a, passa Carlo, Carlo Bianconi. Io ho controllato sul sito, sul suo sito, e almeno non c'è niente, però se lo chiamo e glielo chiedo magari qualcosa mi sa dire. Non avete mai Bianconi di roba con gli amplificatori al sito, capito? Non è che vadano molto gli amplificatori, gli amplificatori girano tra di noi. Se c'è qualcuno, ad esempio, ne ha versato uno a Bianconi, un radioamatore di Sassari, della Henry Radio, una cosa spettacolare, della Henry, che sono i migliori amplificatori al mondo. La Henry è una grandissima casa costruttrice e c'ha due valvole, non sono le 3500 Z, sono quelle ancora più grandi, da 2 kW. 2 kW PEP, picco e picco, una cosa allucinante. L'ho vista in funzione, di una bellezza molto più bella di quello che c'ho io, ma molto più bella veramente. C'ha 4 strumenti grandissimi, mio ne ha 2, qui si vede la costruzione molto superiore, è superiore, perché la IESO a volte si caga in stronzate. Vabbè, io ho due strumenti, una recitazione, quello che incita praticamente in ingresso, e l'altro in uscita, quindi riesce a lavorare bene, perché vedi dallo strumento stesso quanto le stai dando l'amplificatore e quanto ti sta dando. Va bene così. Però qua ne ha 4 strumenti. 4, ti segna anche la notifica della valvola, cazzo, è favoloso. E mi pare che gli ha dato 500 euro, gliel'ha ritirato per 500 euro, perché ha comprato una radio nuova, perché non se ne faceva niente. Prova a chiamarlo a vedere a Bianconi, ma so che gli hanno versato, che ti hanno versato un amplificatore della Henry Radio, della Henry. Ce l'hai ancora, l'hai già venduto, cosa ne vuoi, cosa trattiamo, eccetera, prova a sentirlo. Minchia, cazzo. Devo abbassare questo piano, cazzo. Sì, sì, no, lo faccio, gliela faccio una bassa. Faccio una bassa a vedere un pochettino, però questo Sommer, canto, se tu ti sposti di canale lui si fa l'accordo in automatico, non devi stare tu ad accordare o dargli, c'ha i passi di da 1 a 10, dipende dal passo che tu gli vuoi dare, poi si fa l'accordo in automatico direttamente, non devi stare tu a accordare o che cosa, tutto da solo. Il mio fa così, tutti gli amplificatori HF hanno i passi automatici dell'accordo della valvola, addirittura il mio c'è accordato d'antenna anche, c'è scritto proprio accordato d'antenna, capito? Cioè accordatore di placca e accordatore d'antenna, con i due variabili che servono per andare l'accordatura all'antenna. Quindi io quando vado in antenna con quello della IAESO, col CBH si chiama, della IAESO, che è un 1000 picco picco, accordi direttamente dall'amplificatore. C'è bisogno, una volta che tu hai già accordato dalla radio l'amplificatore, poi l'amplificatore è già accordato in antenna, e così sicuramente sarà quello della Sommercamp. Va bene. Mi sta venendo la biocco. Voglio riguardare la televisione, non ho, quindi mi sa che spegniamo tutto, che domani è un'altra giornataccia. Vabbè, Claudio, dai, mi approfitto, dai, ci sentiamo domani, dai. passato, anche tu. Anche tu te ne andrai a nonna. Dai. A domani, Claudia, ci vediamo. Cioè, ci vediamo, ci sentiamo, dai. Ehi, Sandro. Ehi, tanto, sai, in questi giorni ce n'è poca voglia di parlare. Siamo giornate, siamo in tanti, giornate, siamo in pochi. Antonio è un po' giù in questi giorni, mi ha detto, non ne ho voglia di parlare. Vabbè. E allora io ti saluto e ci sentiamo domani, dai. No, ormai non ci vediamo perché anch'io non c'ho da fare. Se però hai intenzione di fare qualcosa, lo sai, fammi un colpo di telefono come hai fatto stamattina e non c'è problema, sa, a tua disposizione. Ciao, saluto a casa, qua ci hanno cambiato tutti i portachiavi, adesso ha posto l'orsetto, adesso ha posto il gammello, capito? Invece la piccata di tutti i cameretta, insomma avevo fatto strage giù le bombazze, vabbè. Ciao, un abbraccio e ci aggiorniamo domani, Sandro. Ok, dai, va bene. Ciao Claudio, ciao. Ciao, buonanotte.